Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io ritengo che non possa essere descritta la situazione in cui una donna viene uccisa per mano di chi dovrebbe amarla come un raptus, perché non lo è quasi mai e non è quasi mai un'emergenza, ma è profondamente diversa la situazione. Si tratta della conseguenza di una mentalità, di una concezione della donna, e quindi io ritengo che debba essere rappresentata come tale l'uccisione di una donna, come appunto la volontà di sopraffazione dell'uomo. Questo dice la presidente della Camera Boldrini nel giorno della giornata internazionale della donna, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Qualcuno dice: non chiamiamola più festa della donna perché sembra una cosa superficiale, leggera, una cosa invece molto seria, le violenze, le discriminazioni in Italia come nel mondo a diverso livello, però facciamo che sia in qualche modo anche una festa, una giornata internazionale insieme, ci vuole anche un po' di gioia, soprattutto femminile. Stasera parleremo in parte di questo, ovviamente oggi è l'8 marzo, concedete almeno una volta all'anno di parlare di questo, visto che adesso non se ne parla mai, e poi ci occuperemo anche di molte altre cose, per esempio anche del caos, della bufera, come volete dire, che sta agitando le acque del PD, in particolare naturalmente alle primarie che ci sono state domenica a Napoli, con questa ombra che aleggia di possibili brogli, di irregolarità. Poi pare, secondo una dichiarazione che ho visto poco fa di Fanpage, questo sito che ha ripreso in questo video qualche consigliere comunale che pare desse del denaro, degli euro ai votanti per votare Valeria Valente, sembra che ci fosse anche qualcuno del centrodestra. Poi ne parleremo in modo approfondito, però colgo questa occasione per chiedervi, per i vostri interventi sempre attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666, lo ripeto 349-238-6666, di scrivere una vostra frase sulla giornata di oggi, giornata internazionale della donna. Parlava prima la presidente Boldrini di femminicidi, una piaga sociale terribile che riguarda l'Italia e molti altri paesi nel mondo, ma è una vergogna che riguardi un paese anche come il nostro. Si assiste poi nel mondo, secondo una denuncia di cui parleremo di Action Aid, vengono uccise 5 donne ogni ora dal partner o da un uomo di famiglia. Milioni di bambine nel mondo vengono sposate a uomini molto più grandi di loro, sono escluse dall'istruzione, ci sono le mutilazioni sessuali che riguardano tanti milioni di bambine e di donne nel mondo. Insomma, che cosa vi viene di scrivere, quale riflessione in questa giornata oggi? Anche una breve frase, pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666. Io intanto, mentre voi riflettete, vi racconto come sempre una sintesi della giornata. Conti pubblici, Bruxelles spedisce la lettera a Roma, ci sono squilibri eccessivi, si legge, ma per ora nessuna procedura. L'Italia in linea, replica Renzi. Emergenza e migrazione, nel vertice tra Grecia e Turchia, Atene sottolinea, possiamo accogliere non più di 70.000 persone. Summit Renzi-Hollande, l'incontro a Venezia sul tavolo Libia e migranti e un accordo sulla TAV per iniziare i lavori, proteste per le grandi opere, idranti contro i manifestanti. Libia, le salme dei tecnici Failla e Piano dovrebbero rientrare questa sera a Roma. Le polemiche sulle primarie di Napoli, Bassolino fa ricorso, ma il presidente PD Orfini replica, sono casi isolati, il voto non va annullato. La giornata internazionale della donna, il presidente Mattarella avverte, c'è ancora tanto lavoro da fare per l'emancipazione, la denuncia di Action Aid, nel mondo 5 donne uccise ogni ora dal partner. L'omicidio di Roma, altri particolari agghiaccianti sul delitto durante il festino, la difesa di Foffo chiederà la perizia psichiatrica, domani interrogatorio di garanzia per i due arrestati. Zika, l'annuncio dell'OMS, la trasmissione del virus per via sessuale è maggiore del previsto. Giocattoli, morto a 87 anni, Silvestro Bellini, l'uomo che disegnò il volto di Ciccio Bello, uno dei bambolotti più celebri e amati dai bambini di tutto il mondo. E per il calcio, la Champions in campo, la Roma a caccia dell'impresa al Bernabeu contro il Real Madrid. Partiamo quindi dai conti pubblici. Ieri c'è stato l'ammonimento all'Italia e altri paesi europei da parte dell'Eurogruppo, il gruppo informale dei ministri dell'economia e delle finanze. Oggi Bruxelles, dopo la riunione dell'Ecofin, questo invece gruppo decisionale dei ministri delle finanze, spedisce una lettera a Roma. Ci sono degli squilibri eccessivi, si legge, per ora nessuna procedura, però l'Italia è in linea, ha replicato Renzi. Aggiunge, la flessibilità è un valore per tutti i paesi europei, riguarda argomenti di diverso tipo come l'immigrazione o gli accordi con i paesi extraeuropei. Non è il contrario delle regole, la flessibilità di Cerenzi è il contrario delle chiusure, dell'approccio tecnocratico, è un dovere quindi dell'Unione Europea. Ne torneremo a parlare tra poco. La Libia, ancora non sono rientrate in Italia le salme di due connazionali prima rapiti e poi uccisi in territorio libico, dovrebbero, come vi dicevo, arrivare entro stasera, mentre all'impasse politica e militare il Pentagono risponde mettendo a punto i piani di intervento militare contro l'ISIS. Un bombardamento massiccio contro l'ISIS in Libia. Nel giorno in cui il Parlamento di Tobruk non riesce a votare la fiducia al nuovo governo, il Pentagono presenta alla Casa Bianca un piano di opzioni dettagliato per attaccare l'ISIS, tra le ipotesi quella di colpire campi di addestramento, centri di comando, depositi di munizioni e altri obiettivi militari. A rivelarlo il New York Times, l'intelligence americana ha individuato un primo pacchetto di 30-40 bersagli aerei insieme ad azioni di unità scelte, che potrebbero assestare un duro colpo all'ISIS per aprire la strada alle milizie sostenute dall'Occidente. Per ora però non sarà attuato perché nell'amministrazione statunitense c'è chi chiede maggiore tempo per la diplomazia, in quanto non si vuole rendere ancora più fragile il quadro libico. Continuano invece i raid con droni e azioni di comando. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'emergenza immigrazione, ieri c'era il vertice, oggi è proseguito con, in particolare tra Grecia e Turchia. L'ONU però condanna questo accordo tra Unione Europea e Turchia. L'intesa, dice, sulle espulsioni collettive verso un paese terzo viola il diritto dei migranti. Bisogna capire quali garanzie ci sono, dice l'ONU. E intanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l'OIM, informa che sono 444 le persone morte in mare dall'inizio dell'anno, quest'anno, e 141.000 gli sbarchi in Europa. E la crisi libica e l'emergenza migranti sono stati al centro del vertice bilaterale che si è tenuto a Venezia tra Matteo Renzi e il presidente francese Hollande. Solidarietà all'Italia per le vittime in Libia è stata espressa dal presidente francese. Dobbiamo agire, ha detto, l'Europa deve agire, i nostri paesi devono lottare contro il terrorismo, ha detto Hollande, per poi aggiungere: siamo d'accordo con l'Italia che in Libia deve esserci un governo, ma va condotta la lotta contro l'ISIS. I libici sappiano che il tempo a loro disposizione non è infinito, ha detto da parte sua Renzi. L'incontro poi è stato segnato dal ricordo anche di Valeria Solesin, la giovane veneziana uccisa negli attacchi terroristici dello scorso 13 novembre a Parigi, preceduto dalla contestazione dei No TAV contro i quali sono stati sparati degli idranti. A questo proposito della TAV, Italia e Francia hanno siglato il protocollo addizionale per l'avvio dei lavori dell'alta velocità Torino-Lione. E siamo alla politica interna. PD scosso dalle polemiche sulle primarie a Napoli, vi dicevo, relative ai soldi dati da esponenti del partito per indurre al voto alcuni elettori, è stata aperta un'inchiesta e lo sconfitto Bassolino ha annunciato che farà ricorso. Questo alla vigilia della riunione della commissione di garanzia del partito. Il video di Fanpage c'ha immagini per le quali viene fuori un disgusto, è un mercimonio. Antonio Bassolino lo annuncia su Facebook dopo aver in mattinata già espresso così tutto il suo sdegno. Ha presentato ricorso sui gravi episodi avvenuti nelle primarie di domenica. Rispettare la libertà e la dignità delle persone è un requisito irrinunciabile della democrazia, scrive. Indaga anche la Procura di Napoli su quello scambio di denaro all'esterno di alcuni seggi. Difficile che ci siano reati perché si tratta di consultazioni che hanno carattere privatistico, ma resta la questione morale. Visionerà il film domani pomeriggio la commissione di garanzia del PD. A Roma però non sono favorevoli all'annullamento, come accadde 5 anni fa, il presidente Dem Orfini. Credo che il risultato non sia evidentemente in discussione, che le primarie evidentemente non vadano annullate, che se ci sono singoli casi bisogna però intervenire. Anna Rita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci torniamo anche su questo tra poco ed è notizia di poco fa che un agente della Polizia Municipale di Napoli, Manlio Barometro, di 59 anni, è stato ucciso in un agguato in serata proprio a Napoli nel quartiere periferico di Ponticelli. E siamo alla giornata internazionale della donna, il presidente Mattarella avverte c'è ancora tanto lavoro da fare per l'emancipazione, per la parità dei diritti, e poi c'è la denuncia di Action Aid, questa organizzazione non governativa internazionale di cui parleremo più tardi, secondo la quale nel mondo 5 donne vengono uccise ogni ora dal partner. Ma sentiamo intanto Mattarella, poi torneremo su questo rapporto. Soltanto l'affermazione e il rispetto della dignità delle donne rendono possibile una società autenticamente democratica. La pienezza dei diritti politici e sociali delle donne ha allargato gli orizzonti sociali, ha trasformato culture e modi di vita, ha cambiato in meglio il nostro paese, ma abbiamo ancora tanto da fare per abbattere gli ostacoli concreti che si frappongono alla libertà di tante, di troppe donne. Adesso la cronaca, l'omicidio di Roma, domani davanti al GIP Riccardo Amoroso, l'interrogatorio di garanzia per i due studenti accusati del delitto di Luca Varani, e dai verbali del reo confesso emergono nuovi dettagli. Quel tarlo in testa Manuel Fofo lo aveva da tempo, il tarlo di voler far del male a qualcuno, come ha ammesso, e venerdì, insieme al complice Marco Prato, dopo aver invano cercato qualcuno per strada, si è accanito contro Luca Varani. Nulla poteva salvare il giovane, nemmeno un'estrema richiesta d'aiuto, visto che prima del colpo fatale gli erano state recise le corde vocali. Varani è arrivato nell'appartamento del Collatino quando ormai due erano preda della cocaina, e questo, secondo il racconto del reo confesso Fofo, avrebbe determinato la sua sorte. Almeno altri due ragazzi, infatti, prima di lui, Alex e Giacomo, erano entrati in quella casa ma si sono salvati. Su Luca, invece, Fofo e Prato si sono accaniti fino a lasciare il pugnale nel corpo. È per tutto questo che Michele Andreano, avvocato del reo confesso, chiederà la perizia psichiatrica. Loro hanno dormito con la spalma del cadavere, sono usciti e man mano che smaltivano non si sono resi conto. L'altro ragazzo si è andato in un hotel per tentare il suicidio. Raffaella Calandra, Radio 24, il Sole 24 Ore. L'altro caso adesso a Pordenone, dove sembra essere stato risolto il giallo dell'omicidio dei due fidanzati avvenuto un anno fa. Esistono gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Ruotolo, per i quali si è resa necessaria la custodia cautelare in carcere. A parlare il procuratore di Pordenone, Marco Martani, dopo l'arresto ieri sera di Giosuè Ruotolo, accusato dell'omicidio dei fidanzati di Pordenone, Trifone Ragone e Teresa Costanza, avvenuto il 17 marzo dello scorso anno. Gli elementi, a carico del 26enne, caporal maggiore dell'esercito di Somma Vesuviana, erano già rilevanti nello scorso ottobre, ha spiegato il procuratore, ma il quadro si è aggravato nel tempo, fino all'arresto a cui si è proceduto per un pericolo, ha detto Martani, di inquinamento delle prove. A incastrare Ruotolo, tra l'altro, dei messaggi Facebook mandati da un profilo anonimo alla fidanzata di Ragone, Teresa, uccisa insieme a lui. Messaggi che erano finalizzati proprio a creare una frattura nella relazione affettiva tra Teresa e Trifone. Nei messaggi una certa Annalisa diceva a Teresa di essere l'amante di Ragone, ma secondo gli inquirenti erano inviati in realtà da Giosuè Ruotolo. Ragone l'aveva scoperto e aveva malmenato il suo ex coinquilino e commilitone davanti ad altre persone. Da qui il desiderio di vendetta di Ruotolo, culminato con il duplice omicidio. Avrebbe collaborato nel tentare di cancellare le prove la fidanzata di Giosuè Ruotolo, Maria Rosaria Patrone, finita ieri sera agli arresti domiciliari. Roberta Pellegatta, Radio 24, il Sole 24 Ore. E ora questo annuncio dell'OMS su Zika. Secondo l'OMS ci sono evidenze che la trasmissione sessuale del virus Zika è maggiore del previsto attraverso via sessuale. Lo ha affermato la direttrice generale dell'OMS, Margaret Chan, durante una conferenza stampa a Ginevra, aggiungendo che i rapporti giunti da diversi paesi suggeriscono che questo tipo di trasmissione del virus è più comune di quanto creduto precedentemente. Chan ha anche aggiunto che la microcefalia di cui si è parlato finora è solo una delle problematiche fetali che potrebbero essere legate all'infezione del virus Zika. E siamo ai giocattoli, con un lutto nel mondo dei giocattoli e non solo, appartiene alla cultura, alla vita, alla formazione di tanti bambini nel mondo. È morto a 87 anni l'uomo che disegnò il volto di Ciccio Bello, Silvestro Bellini. Ci hanno giocato generazioni di bambine sognando di fare le mamme. Certo, c'erano quelle che preferivano Barbie, che di figli non ne aveva, impegnata a girare felicemente il mondo e a tenere sulle spine un fidanzato con cui non si sistemava mai. Ma si sa, ci sono piccini che già nei giochi vogliono cullare, coccolare, nutrire, persino cambiare il pannolino. E quello era il partito del Ciccio Bello, che prima di avere mille varianti ne aveva solo una, bionda e paffuta, nata nel 1962. Poi due fratellini nel 1963. Il cinese bimbo giallo Chao Fiulin, nome che fa perlomeno sorridere i lombardi, e quello che il sito ufficiale chiama con political correctness Angelo Nero, ma si chiamava Angelo Negro, allora si usava così. Uno con gli occhietti a mandorla, uno con i ricci, colori a parte, comunque assomigliavano al maggiore, le cui fattezze erano ispirate a un neonato bergamasco. Lo raccontava Silvestro Bellini, modellatore che lo disegnò e che è scomparso a Bergamo all'età di 87 anni. Il mondo piange il papà di Ciccio Bello, ed è la terza volta che i giornali titolano così, dopo la scomparsa degli imprenditori Lucio Micheletti e Gervasio Chiari che lo producevano. Ma cronaca a parte, resta un bel ricordo di infanzia per le bambine che ci hanno giocato e anche per quelle che no. Marta Cagnola, Radio 24, il Sole 24 Ore. Qui si gioca, anche maschi hanno giocato col Ciccio Bello, qui si gioca a calcio invece con Giovanni Capuano per la Champions. C'è la Roma in un'impresa quasi impossibile, Giovanni? Giovanni Caduto, era talmente impossibile questa impresa che Giovanni ha preferito apporre del silenzio a questa sfida. Intanto, allora che riprendiamo Giovanni Capuano, leggo i vostri messaggi. C'è Simone da Roma, al 349-238-6666, vi ho chiesto però di scrivere frasi o riflessioni sulle donne oggi. Dice: ciao Roberto, io abito proprio dove hanno ucciso Luca Varani, qui anche nel quartiere si sta parlando solo degli assassini dimenticandosi di Luca, per loro c'è solo da buttare via la chiave. Dice Simone: di qualcosa in merito almeno tu. Simone, ne abbiamo parlato, è stato un delitto atroce, questo ragazzo ha fatto una fine terribile, e che cosa c'è ancora da aggiungere, Simone? Poi chi lo conoscerà, chi potrà dire delle cose belle di lui, come la fidanzata, come i genitori le diranno, più che parlare appunto di quello che è avvenuto e della follia anche di chi ha commesso questo crimine terribile. Follia, dicevamo ieri, però col presidente dei psichiatri, c'è poca follia, c'è molta lucidità e anche la consapevolezza nel prendere droghe a livello così massiccio e alcol, che poi si va a finire in questo modo e si coinvolge qualche innocente. Giovanni, sei ritornato con noi? Eccomi. Ecco Giovanni Capuano, che fa la Roma? Fa 0-0, ma è una partita bellissima. Siamo al 33esimo minuto nel corso del primo tempo. Il Real parte dal 2-0 dell'Olimpico dell'andata, ma sta concedendo tantissimo campo ai giocatori della Roma. Roma che ha avuto due occasioni colossali per passare in vantaggio. La prima l'ha sprecata Dzeko al 14esimo, davvero incredibile, solo davanti a Keylor Navas ha messo fuori. E la seconda, il 28esimo, l'ha avuta Salah, anche lui solo al limite dell'area di rigore. Il suo tiro è finito sull'esterno della rete. È un Real però che sta concedendo tantissimo alle ripartenze della Roma, ha creato anche il Real due buone occasioni. Qualche istante fa Szczęsny si è dovuto distendere per ribattere una conclusione dal limite dell'area di rigore, aveva dovuto ribattere di pugno anche un tiro di Modric, però è una gara che è aperta a qualsiasi risultato, perché il Real sta rischiando di prendere quel gol che Spalletti chiedeva alla vigilia per poter riaprire anche il discorso qualificazione. Adesso c'è stata un'altra azione di Cristiano Ronaldo che ha costretto il portiere della Roma a un'uscita in calcio d'angolo. Roma che sta giocando con un modulo super offensivo, pensa che in campo ci sono Dzeko, prima punta, Salah, Perotti e Sharawi alle sue spalle, c'è Pjanic, insomma ci sono quattro attaccanti più un centrocampista che è assolutamente offensivo, tutto per cercare di rimontare dallo 0-2 dell'andata. Siamo al 34esimo minuto, ancora 0-0 al Bernabeu, ma è una gara assolutamente da seguire. Ti sento appassionato Giovanni Capuano, poi ritorniamo ad aggiornarci. Invece vorrei leggere, prima di aggiornare chi sta viaggiando, alcuni dei vostri messaggi. Dice Doris da Trieste: le donne spesso aderiscono alla visione maschile, vi fanno aderire le figlie scusatemi, tenersi stretto un uomo chiudendo gli occhi sul suo meschino maschilismo non deve più essere considerato un sacrificio necessario. Giustamente Doris. Poi c'è un messaggio di Franco al 349-238-6666: questo mondo migliorerà solo quando le donne avranno più potere, dice, dopo 2000 anni di massimo potere degli uomini si devono mettere da parte gli uomini. Franco è uno di quegli uomini che ha capito che la questione riguarda tanto le donne quanto gli uomini. Grazie Franco. E poi dice: alla luce dello scandalo di Napoli non capisco la fretta di Orfini nel chiudere la faccenda, visto che lo scarto fra i primi due è di poche centinaia di voti. Poi ne parleremo, tra pochissimo. E qualcun altro dice invece, sempre sulla pagina Facebook, a proposito delle riflessioni, Giulia scrive: state molto attenti a far piangere una donna, che poi Dio conta le sue lacrime. La donna è uscita dalla costa dell'uomo non dai piedi perché dovesse essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale. Anche se, ringrazio te, rimando il bacio Giulia, anche se anche il Papa ha detto che la donna né da una costa né da altra appendice dell'uomo, tutte e due creati insieme. Alessandro: solo il 30% dei paesi nel mondo ha un'uguale proporzione di ragazzi e ragazze iscritti nelle scuole secondarie. Vogliamo festeggiare l'8 marzo con questo concetto? Solo quando ci saranno delle vere pari opportunità il mondo potrà vincere le molte sfide che ha avanti. Buona giornata internazionale della donna. Grazie Alessandro, buona giornata anche a te e buona viabilità, ci sentiamo a momenti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora tanti vostri messaggi, vi chiedo una riflessione oggi sulla giornata internazionale della donna alla luce di tutte le cose che si dicono e si concentrano in questa giornata della disparità nei luoghi di lavoro, nella rappresentanza politica, i femminicidi in Italia come anche in buona parte del mondo, le violenze contro le donne. Vedo molti messaggi di uomini, questo mi fa piacere, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666. Maurizio dice: noto con profondo dispiacere che in Italia si sta tornando indietro, specialmente da quando la presenza islamica si è fatta forte, abbiamo confuso la tolleranza verso altre culture con i nostri diritti. Sono d'accordo sulla questione dimostrazione di tolleranza che a volte maschera delle cose intollerabili, ma Maurizio purtroppo invece di maschi italiani che uccidono, che picchiano, ce ne sono a Iosa senza bisogno anche della giunta, tra l'altro, dei diciamo gli estremisti islamici. Stefano, buon 8 marzo a tutte le donne, a te Roberta, con la speranza che una svolta culturale e l'applicazione delle leggi esistenti possano cambiare le cose. Grazie Stefano, ne parleremo tra pochissimo, vi ricordo intanto le notizie più importanti. Vertice Renzi Hollande a Venezia, sulla Libia il tempo non è infinito, dicono, e poi è stato firmato tra Italia e Francia un nuovo protocollo per la TAV. Il richiamo dell'Unione Europea sui conti nei confronti dell'Italia, ma Renzi assicura niente manovra. Caso Napoli agita il PD, Bassolino presenta il ricorso, il presidente del PD Orfini convoca la direzione, dice interverremo però senza annullare il voto. Libia slitta l'arrivo a Roma delle salme di Faella e Piano. Intanto il governo di Tripoli per ora ancora non c'è il voto, non c'è questa unità di governo. Migranti, l'ONU condanna l'accordo tra Unione Europea e Turchia e dice che viola i diritti dei migranti. Omicidio a Roma, i colpi alla gola per impedire al povero Luca Varani di parlare. L'assassino Fofo dice voglia di far male, già l'avevo avuta, e la difesa invoca una perizia psichiatrica. Una novità, diciamo così, anche sul povero Regeni, Giulio Regeni, ucciso in Egitto, è morto un giorno prima del ritrovamento, questo dice il magistrato di Giza. 8 marzo, Mattarella dice nessuna indifferenza sulla violenza alle donne, e Boldrini dice bisogna ammainare la bandiera alla Camera ogni volta che c'è un femminicidio. Nella giornata internazionale della donna c'è il rapporto, fra gli altri, di Action Aid, che è una denuncia. In Italia una donna su tre ha subito violenza almeno una volta nella vita. Una donna su tre. Ogni ora nel mondo 5 donne sono uccise dal partner o da un familiare, una vittima ogni 12 minuti. E questa, molto in breve, insomma, questa terribile, vergognosa dimensione della violenza domestica sulle donne, una delle violazioni più diffuse dei diritti umani nel mondo. Secondo l'ONU sono infatti 46.600 le donne uccise ogni anno dal partner o da un uomo familiare, l'equivalente di 5 donne ogni ora, dicevamo. E poi Action Aid stima anche che più di 500.000 di donne morirà a causa della violenza domestica entro il 2030. Ne parliamo con Rossana Scaricabarozzi, esperta di politiche di genere per Action Aid, che è un'organizzazione non governativa presente in 45 paesi del mondo. Buonasera. Buonasera. Buonasera Scaricabarozzi. Quindi questa denuncia terribile, sembra ogni volta che si faccia un bilancio, un punto, un consuntivo, no, nella giornata internazionale della donna, questi sono dati gravissimi. Sono dati gravissimi e infatti approfittiamo, diciamo, di questa ricorrenza per denunciare questo fenomeno che, come dicevate voi, appunto è diffuso in tutti i paesi del mondo e si tratta principalmente appunto di violenza per mano appunto di partner o comunque di membri della famiglia. L'Italia riguarda anche il nostro paese e per questo infatti l'Istat rileva che almeno il 31,5% delle donne subisce violenza fisica o sessuale, e anche i dati sul femminicidio comunque sono preoccupanti, parliamo sempre, e stabili nel tempo, e questo è anche il dato preoccupante, per questo siamo usciti anche con questi dati. La stima, diciamo, da qui al 2030 ci dice, ci permette, diciamo, di calcolarla, appunto perché si tratta di un crimine che rimane stabile nel tempo, ancora non ci sono cenni di diminuzione. Tra l'altro risponderei a Carlo da Vicenza. Carlo forse abita in un altro mondo, non credo che venga da Marte perché è un pianeta che, diciamo, ha un suo valore, dice, ma la vuole piantare, dice a me di usare la parola femminicidio, non esiste, è l'ONU stesso che ha coniato questo termine, esiste nella legislazione di tanti paesi nel codice penale, caro Carlo, informati. Fra l'altro Rossana Scaricabarozzi, leggevo anche a proposito di altre denunce, per esempio che 63 milioni di bambine sono escluse dalla scuola in tutto il mondo, questo crea una grave disparità poi anche nella formazione, nello sviluppo, nelle prospettive che hanno le bambine, i tanti matrimoni infantili, quante bambine nel mondo vengono costrette a sposarsi anche a 7, 8, 11 anni con uomini di 60, 70 anni, quindi veramente più di quello che possiamo immaginare quello che succede, no? Certo, sono ingiustizie che sono ampiamente diffuse appunto in molti paesi, anche in questo il nostro paese non è, diciamo, esente da questo tipo di crimini. I matrimoni precoci e forzati riguardano anche il nostro paese, specialmente ovviamente le donne migranti, le mutilazioni genitali femminili sono ancora un'urgenza a livello mondiale, l'analfabetismo a volte poi è anche una causa che fa sì che queste violenze si perpetuino. Appunto, e quindi è per questo che ActionAid all'interno delle sue strategie di lotta alla povertà tiene conto appunto di queste variabili. Si tratta appunto di disparità che sono ancora gravi, che riguardano tutto il mondo. Tra l'altro proprio a livello ONU è stata appena approvata una nuova agenda per lo sviluppo che avrà scadenza dal 2030 e ovviamente include tra gli obiettivi tutti questi target, appunto la violenza, l'analfabetismo, l'empowerment economico, anche l'accesso al lavoro. E si tratta appunto di un'agenda che riguarda anche i paesi sviluppati, quindi anche l'Italia. Ricordiamo appunto che in Italia una donna su due non ha un lavoro retribuito e questo ovviamente si ripercuote poi in molti ambiti della vita, sia a livello di rappresentanza politica, e questo ha ovviamente anche delle ripercussioni sulla violenza, in particolare la violenza domestica. Appunto, quindi se molti uomini, spero pochi come Carlo da Vicenza, continuano a negare la realtà, evidentemente c'è poco da cambiare, no? C'è poca speranza. Speriamo che ce ne sia un po' di più di quella che ci esprime Carlo da Vicenza. Grazie infinite Rossana Scaricabarozzi di ActionAid. Grazie, buon lavoro. Grazie. Ora invece ci spostiamo su problemi di altro tipo, che sono quelli che sta vivendo il PD a Napoli. Sapete che ci sono state le primarie del centrosinistra a Roma e a Napoli, bassa l'affluenza, ma soprattutto che cosa è successo a Napoli? Le primarie che hanno visto la vittoria di Valeria Valente stanno vivendo, diciamo, dei momenti molto difficili da ieri, perché su questa vittoria aleggia il sospetto, l'ombra di irregolarità che sarebbero state documentate domenica dal sito fanpage.it, che ha ripreso in un video dei consiglieri comunali di centrosinistra che davano delle monete ai votanti fuori dai seggi, a delle persone che erano fuori, per farli votare, consigliandogli anche, pare, di votare Valeria Valente. Guerini e altri esponenti del PD, poi sentiamo Orfini per esempio, hanno insistito dicendo si tratta di casi singoli, non per questo va annullato il voto. Sentiamo Orfini, presidente del PD. Se ci sono stati illeciti, se ci sono state anche cose non penalmente rilevanti ma diciamo discutibili nel merito della regolarità dello svolgimento di quel singolo caso, è giusto che si prendano provvedimenti sul singolo caso, ma questo non mi sembra inficiare l'esito delle primarie, anzi che si sono svolte in larghissima parte, al 99% dei casi, come peraltro raccontato dai vostri colleghi napoletani, in modo impeccabile anche rispetto a tutte le precedenti elezioni primarie, dove il risultato non si è evidentemente in discussione. Intervenuto anche sulle primarie di Napoli, è intervenuta Virginia Raggi, che è la candidata del Movimento 5 Stelle a Roma. Sentiamola. La trovo una cosa vergognosa, cioè proprio l'emblema di quanto la democrazia sia assente dal PD, insomma pagare qualcuno perché voti un'altra persona è il simbolo, il segno di un partito che deve probabilmente fare i bagagli e andare via. A questo punto lo sconfitto ex sindaco di Napoli, ex governatore della Campania, Antonio Bassolino, che è stato sconfitto così almeno per il momento per circa 450 voti, ha presentato ricorso alla commissione di garanzia del Partito Democratico e già aveva detto in mattinata: sono disgustato. Sono disgustato per le immagini che si vedono nel video pubblicato da Fanpage, trovo ridicole le spiegazioni che sono state date. Mi sembra una ferita anche chiara e profonda per tante persone che hanno creduto nella partecipazione democratica. Ne parliamo con Alessandro Barbano, direttore del quotidiano Il Mattino. Direttore, buonasera. Buonasera a voi. Alessandro, quindi che cosa succede adesso a Napoli? Fra l'altro leggevo poco fa Fanpage, sempre il sito che ha appunto mostrato queste immagini, ha detto che nelle immagini riprese ci sono anche, girate a Scampia, ci sono Claudio Ferrara, assessore di centrodestra dell'ottava municipalità, candidato alle politiche del 2013 con Berlusconi, ritiratosi poi dopo l'esclusione di Cosentino, e anche Giorgio Ariosto, candidato nel 2011 alla stessa municipalità. Ariosto nel video dà una persona anche l'euro per il voto. Che cosa significa? C'è una gran confusione, c'era anche qualcuno di centrodestra quindi che dava gli euro. Significa che, come sempre accade quando due candidati rivaleggiano in maniera acerrima per la vita e per la morte, e queste primarie, ho usato questa metafora forte, ma in effetti queste primarie sono state, diciamo, precedute da una vigilia molto tesa, di grandissimo scontro politico fra candidature opposte, quella di Antonio Bassolino e quella di Valeria Valente, è chiaro che tutti e due i gruppi si sono organizzati per cercare di portare al voto il più possibile persone disponibili a sostenere le proprie candidature, senza curarsi se costoro avessero una tessera di partito del PD o meno. Del resto le primarie sono aperte e quindi una certa attività di proselitismo è stata fatta anche da parte di forze alleate, per esempio i cosiddetti verdiniani, in questo caso sembrerebbe che abbiano sostenuto, ma questo mi pare abbastanza legittimo, il candidato Valente, così come in Parlamento fanno nei confronti di Renzi. Il punto non è questo, il punto è se le immagini del video di Fanpage, che sono delle immagini di 3 minuti montate e di cui disponiamo evidentemente alcuni frammenti, configurano, diciamo, una lesione dell'integrità del voto. E questo lo valuterà oggi la commissione del partito chiamato a giudicare, a cui Bassolino ha presentato un ricorso. Come sappiamo, i partiti sono associazioni non riconosciute, quindi esiste quella cosiddetta clausola compromissoria che impegna gli aderenti ai partiti e alla competizione, in questo caso elettorale delle primarie, ad accettare, nel caso sorgano delle controversie, un giudizio di cognizione da parte di un giudice arbitrale interno al sistema. E quindi Bassolino ha scelto la strada del ricorso alla commissione, chiedendo che si pronunci sulla possibilità che questa dazione di denaro, 1 euro, per l'iscrizione necessaria per il voto da parte di alcuni candidati, da parte di alcune persone che intercettavano potenziali elettori della Valente, configuri una lesione del voto. Nel video devo dire, per onestà intellettuale, che anche in un caso sembrerebbe che ci fosse anche in uno dei video mostrato da Fanpage un tentativo di indicare Bassolino, Bassolino. Non è chiarissimo, perché parliamo di spezzoni di immagini tradotte, evidentemente rubate nel senso filmate all'insaputa di chi partecipava a questi scambi, e poi tradotte dai giornalisti del sito. Quindi certamente questo denota che cosa? Denota che le primarie, che sono una formula anche utile e che devo dire a Napoli hanno segnato una grande partecipazione di popolo, a prescindere da questi episodi che sembrano isolati, poi questo si verificherà, però così come sono regolate non possono certo garantire una assoluta correttezza. Chiaro. È chiaro che il cittadino si chiede, noi abbiamo intervistato ieri Raffaele Cantone, ma altri giuristi, è ovvio che questo tipo di pressione non configurerebbe nessun reato, però il cittadino si chiede come mai nelle elezioni questo si chiama voto di scambio e nelle primarie, per il solo fatto che i partiti non sono regolati ai sensi della Costituzione, questo non configura evidentemente un reato. E questa è una simmetria difficile da spiegare. Già. Certamente è discutibile questa procedura, ma è ovvio che quando si muovono le macchine dei partiti da una parte e dall'altra, chi più ne ha più che ne metta, e ciascuno si sente protagonista di una partita e ognuno la gioca a modo suo, a secondo di come è abituato a vivere, evidentemente. Alessandro Barbano, direttore del Mattino, io ti ringrazio, vediamo se i giochi allora sono di nuovo aperti oppure che cosa succederà nelle prossime ore. Grazie Alessandro Barbano, direttore. Grazie a voi. Prima di questa brevissima pausa di ricreazione voglio leggere ancora il messaggio di Roberto da Bergamo. Potete continuare sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Questo è un WhatsApp. Chi viola una donna viola la natura umana nella sua massima espressione evolutiva, quindi si dimostra indegno di essere considerato uomo, scrive Roberto. Tra poco. L'Europa al bivio greco, con Radio 24, nel cuore della crisi. Dal 7 al 12 marzo, Radio 24 vi accompagna in un viaggio nel paese che più di tutti racconta la profonda crisi dell'Europa contemporanea. Immigrazione e scontro con Bruxelles, crisi economica e occupazionale, crisi di identità di un paese che si riflette sull'intero continente. Dai Idomeni, dove migliaia di migranti premono alle porte della fortezza Europa, fino ad Atene, dove il governo cerca i mezzi per sostenere un'economia in ginocchio. Radio 24, con i suoi inviati, i suoi conduttori e gli esperti in studio, percorre le strade della Grecia per cercare di comprendere il cammino dell'Europa. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Fulvia da Vicenza, Roberto Giordano sempre con voi. Fulvia da Vicenza al 349-238-6666. A proposito della giornata internazionale della donna, scrive: in attesa dell'emancipazione del maschio, consiglio alle donne fin da piccole corsi di arti marziali, dovrebbe essere fatto dalle scuole elementari. Intanto è sempre positivo perché diciamo, rinforza il fisico e anche la mente, la psiche, la sicurezza di sé, della propria capacità anche fisiche di opporsi a ingerenze e violenze. Fulvia, e poi c'è sulla pagina Facebook di Effetto Notte Enrico che dice: banale festeggiare l'8 marzo, banale dire che le donne andrebbero festeggiate ogni giorno, poi puntualmente nulla si fa per davvero. La via della parità di genere, dice Enrico, è ancora lontana e non è la testimonianza e i buoni auspici che la otterranno, ma la lotta innanzitutto delle donne. È vero Enrico, innanzitutto delle donne, ma metteteci anche voi uomini. Intanto prima di passare al prossimo argomento, vi ricordo i titoli principali della giornata. Conti pubblici, Bruxelles spedisce la lettera a Roma, ci sono squilibri eccessivi, si legge, ma per ora nessuna procedura. L'Italia è in linea, replica Renzi. Emergenza e migrazione, nel vertice tra Grecia e Turchia, Atene sottolinea, possiamo accogliere non più di 70.000 persone. Summit Renzi e Hollande, l'incontro a Venezia sul tavolo, Libia e migranti, un accordo sulla TAV per iniziare i lavori. Libia, le salme dei tecnici Faila e Piano dovrebbero rientrare stasera a Roma. Le polemiche sulle primarie di Napoli, Bassolino fa ricorso, ma il presidente PD Orfini replica, sono casi isolati, il voto non va annullato. Giornata internazionale della donna, il presidente Mattarella avverte, c'è ancora tanto lavoro da fare per l'emancipazione. C'è la denuncia di Action Aid che dice nel mondo 5 donne uccise ogni ora dal partner. L'omicidio di Roma, altri particolari agghiaccianti sul delitto durante il festino. La difesa di Foffo chiederà la perizia psichiatrica. Domani interrogatorio di garanzia per i due arrestati. Zika, l'annuncio dell'OMS, la trasmissione del virus per via sessuale è maggiore del previsto. E poi per il calcio, in Champions, la Roma caccia dell'impresa contro il Real Madrid, per il momento sono 0-0. L'Europa al bivio greco, con Radio 24 nel cuore della crisi. Cuore della crisi, la Grecia, che è diciamo il paese più emblematico in Europa a testimoniare la profonda crisi economica e appunto l'emergenza migranti. Ieri ci siamo collegati con la nostra Valentina Furlanetto da Idomenine, al confine tra Grecia e Macedonia, dove migliaia di migranti che vivacchiano una grande baraccopoli premono alle porte della Fortezza Europa, mentre oggi raggiungiamo la nostra Valeria De Rosa ad Atene, dove il governo cerca i mezzi per sostenere un'economia in ginocchio. E com'è la situazione lì nella capitale, Valeria? Ciao Valeria. Buonasera Roberta, a te e ai nostri ascoltatori. Diciamo che ad Atene la situazione è certamente più vivibile rispetto a quelli che sono i confini nord del paese, però anche qui ci sono 5 campi che attualmente accolgono un numero che varia di ora in ora tra le 10.000 e le 15.000 persone. Diciamo che in questo momento in Grecia ci sono qualcosa come 40-50.000 rifugiati. Lo dicevi poco fa, il ministro per le politiche migratorie greco oggi ha dichiarato che la Grecia può ospitare fino a 70.000 persone, oltre non sarà più possibile. Diciamo che il limite è abbastanza vicino. Diciamo anche che questo è un paese che l'anno scorso, quindi nel 2015, ha affrontato le spese della crisi migratoria per circa 1 miliardo di euro, a fronte di soli 30 milioni che sono arrivati da Bruxelles, perché Bruxelles ha stanziato adesso i 700 e passa milioni di euro, ma da distribuire nel corso dei prossimi 3 anni, mentre Tsipras ha chiesto subito 400 milioni, perché veramente questa è una crisi che si innesta su una crisi economica che è profondissima, certo. E l'abbiamo documentato appunto nel corso dei mesi, degli ultimi mesi. Tra l'altro in questi giorni tornano ad Atene i funzionari della Troica per vedere a che punto è il paese, quali sono state le riforme fatte, e certo è che in un momento così difficile anche dal punto di vista umanitario per la Grecia allocare risorse su altri capitoli è davvero complicato. Certo Tsipras oggi è volato in Turchia, quasi obbligato direi, perché tra la Turchia e la Grecia sappiamo tutti che non corre buon sangue, ma in questo momento per Tsipras è necessario un accordo. È necessario che la Turchia riaccolga tutti coloro che non hanno diritto di asilo in Europa. E quindi ecco spiegato il perché diciamo questo grande accordo stentato tra Grecia e Turchia. Diciamo anche che l'accordo che è stato raggiunto ieri al summit europeo qui non è stato accolto con grossissimo favore, soprattutto da quelle che sono le associazioni umanitarie, perché il loro primo pensiero è stato: questo è un accordo che spinge i migranti, spinge i rifugiati nelle braccia dei trafficanti, certo, perché queste sono ovviamente persone che scappano dalla guerra, che non hanno alternative, perché a casa loro non hanno appunto più una casa distrutta dalle bombe, e quindi cercheranno vie alternative. Noi proprio a questo proposito oggi abbiamo raccolto anche il racconto. Non so se Valeria abbiamo abbastanza tempo adesso. Ma guarda, è solo un attimo, sì, perché è una stato indicativo che anche... Sì, che anche questo signore, che poi è stato il tassista che mi ha accompagnato dall'aeroporto in albergo, che si chiama Panayotis, se lo possiamo magari sentire in sottofondo, mi raccontava di questa Victoria Square, che è una piazza tra l'altro abbastanza centrale ad Atene, dove fino a pochi giorni fa erano accampati molti migranti, che sono quelli che non vogliono farsi identificare e che venivano avvicinati da stessi connazionali, quindi afghani, pakistani, che lì diciamo sulla falsa promessa di farli passare il confine riuscivano ad estorcergli denaro. Quindi questa è la rete che si sta configurando. Diventano preda di tutti quelli che vogliono approfittare di questa situazione difficilissima. Grazie Valeria De Rosa ad Atene, poi continueremo il nostro viaggio in Grecia nei prossimi giorni, naturalmente. C'è la viabilità? Sì. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Se state ascoltando Effetto notte, siete sul posto giusto al momento giusto con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Tra pochissimo lo spazio europeo, già in parte abbiamo parlato di Europa, ma queste sono notizie comunque più importanti del giorno, che vi ricordo: il vertice tra Renzi e Hollande a Venezia, sulla Libia il tempo non è infinito, ha parlato di Libia, di immigrazione, c'è stato anche hanno firmato un nuovo protocollo per la TAV, Italia e Francia. L'Italia, il richiamo da parte dell'Europa sui conti pubblici italiani, ne parleremo tra pochissimo. Il caos a Napoli sulle primarie con Bassolino che presenta il ricorso, e poi per la Libia slitta l'arrivo a Roma delle salme di Failla e Piano, e il governo di Tripoli ancora non ha un voto per essere formato in modo unitario definitivamente. Abbiamo parlato dei migranti adesso, e poi per l'incendio di Roma i colpi alla gola per impedire al povero Luca Varani di parlare. Fofo l'assassino confesso, dice, lo confesso, avevo già voglia di far male. Intanto la difesa chiede una perizia psichiatrica. Europa 24 notte. Parliamo dei conti pubblici italiani, per l'appunto, visti dall'Unione Europea. Ieri l'Eurogruppo, il gruppo informale in cui si riuniscono i ministri dell'economia e delle finanze e dei paesi europei, come previsto, sono tornati a discutere in una riunione a Bruxelles della situazione dei conti pubblici dei paesi più a rischio, inclusa l'Italia. C'è stato un nuovo richiamo per quelli che sono state prese in Italia delle misure che aumentano il deficit, c'è un rischio di significativa deviazione dall'aggiustamento. Poi queste stesse preoccupazioni oggi sono state anche affrontate dall'Ecofin, che è il gruppo sempre dei ministri di economia e finanze, ma con un potere decisionale. E che cosa è stato detto a proposito nostro, soprattutto Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore? Ciao, buonasera, Chicco. Ciao. Siamo ancora sotto osservazione. Devo dire che non ci hanno proprio condannati. Questa è una bella notizia. Non hanno aperto procedure, per il momento, no? Esatto, nessuna procedura di infrazione. Gli esami proseguiranno, siamo sotto osservazione per quelli che i tecnici chiamano squilibri macroeconomici eccessivi, vuol dire che abbiamo in soldoni, insomma in parole semplici, un po' più semplici, abbiamo un debito pubblico troppo elevato, non stiamo centrando l'obiettivo del pareggio strutturale di bilancio, abbiamo una bassa competitività e questo lo sappiamo, abbiamo anche sofferenze bancarie eccessive. Tutta questa cosa diciamo determina per i nostri conti pubblici una situazione di incertezza, per cui Ieri Bruxelles, cioè, anzi scusa, oggi Bruxelles ci ha inviato questa famosa lettera di cui si parla da molto tempo. È proprio così, in una busta questa lettera, come si faceva una volta. Immagino, non ho idea. E comunque, come dicevo, la buona notizia è che per ora non ci condannano, non ci chiedono neanche di fare una manovra aggiuntiva, però si aspettano che entro il 15 aprile il nostro governo faccia sapere quali misure intende adottare per, diciamo, tenere rimettere i conti pubblici sulla rotta corretta. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Ma si dice che i nostri conti verranno corretti per un importo di circa 3 miliardi senza fare una manovra aggiuntiva, lo hanno ripetuto anche in serata sia Renzi a Padova, ma diciamo trovando tra le pieghe del bilancio di quest'anno questo importo aggiuntivo che dovrebbe arrivare, diciamo, in parte dalla voluntary disclosure, il rientro dei capitali che è stato messo a bilancio per 2 miliardi, in realtà ne porterà 4, quindi porterà più entrate di quanto si era previsto. E poi insomma dobbiamo pensare che i tassi di interesse sui titoli di Stato si sono ridotti, stanno riducendo ulteriormente, sono ormai vicini allo zero, a volte anche sotto zero, e questo determina ulteriori risparmi sul finanziamento del debito pubblico. Quindi 3 miliardi da trovare, ma dicono Renzi e Padova, senza una manovra, quindi vuol dire senza aumentare le tasse. Grazie Salvatore Padula. Grazie. Grazie Chicco. Ciao. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ancora pochi secondi per alcuni vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effettonotte, alla quale potete continuare ad aderire anche senza indugio, e poi sul 349-238-6666 dice ascoltatore o ascoltatrice: per molti uomini, specie musulmani, occorre un corso di educazione ai valori di libertà e parità. In Norvegia è facoltativo, dovrebbe diventare obbligatorio, ai noi, anche per gli italiani, per l'appunto, purtroppo, insomma, uomini da una parte e dall'altra. Filippo da Milano: c'è un problema che non vogliamo vedere in tutta la sua gravità, che si chiama Islam, con la sua concezione di assoluta sottomissione della donna, ma come abbiamo detto Filippo, fosse solo da quella parte. E non è così, purtroppo. Cerchiamo di essere tutti consapevoli di quella che è la necessità di capire quali sono i valori, la parità di genere. E mi dicono che dobbiamo salutare. Ci risentiamo alle 22.